sto camminando nei pensieri miei, un labirinto di voci e malinconie, per cercare parole che non senti ogni giorno. Fumo troppo, va bene, pensa a te, sono stanco e allora cosa c'è? Questo è il modo più triste che ho per dire che va male. Vorrei portarti al sole, a un posto per sentire tutto quello che non hai ammesso mai di capire.